fosse la tua realtà, mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Ciao alle compagne e compagni che seguono Radio Asilo. Questa sera, ecco, la trasmissione sarà incentrata sulle riflessioni sul corteo del 30 ottobre a Roma contro il C20. Però prima di entrare nell'ambito della discussione, è chiaro, essendo la nostra radio, essendo il nostro centro sociale a Salerno, non potevamo che ribaltare la notizia, diciamo, del fatto che il presidente della regione Campania, che è sindaco di fatto della città di Salerno, è stato indagato a causa, insomma, di tutto sto casino che sta succedendo sui rapporti tra clientelismo politico e cooperative sociali, un intero sistema e via dicendo. È chiaro che l'invito che noi volciamo ai compagni di non cadere nel concetto del moralismo. Il problema, cose che noi abbiamo sempre denunciato dai suoi primi vagiti da sindaco di Salerno nel lontano 93, questo è neoliberismo e questo è quello che è, diciamo, sarà anche lo scenario a livello nazionale di quel che Draghi vuol determinare, anche a partire dalla gestione dei miliardi che verranno dati ai vari comuni, quindi una torta appetibile di tutti, per cui ce ne dovremmo aspettarci di più d'altro. E l'invito ai compagni, non trasformiamoci, almeno per ciò che riguarda i compagni della nostra città, in tifoseria, tantomeno quello di, come devo dire, prospettare ulteriori elezioni. Basta queste elezioni, basta, abbiamo già avute troppe. Allora, comunque avremo opportunità di approfondire pure queste tematiche. Ecco, la riflessione sul corteo del 30 ottobre. Il 30 ottobre, per chi c'è stato, ha vissuto un momento di emozione per gli operai della CKN di Firenze e della comunità che è, diciamo, scesa insieme a loro, un qualcosa di emozionante. Sono partiti anche dei messaggi politici da cui dover poi praticare a livello locale. Però abbiamo l'opportunità, perché, diciamo, poi ci colleghiamo con una compagna della Confederazione Cobas e un altro compagno, diciamo, vicino all'USB, che ricordiamo sono le due sigle che sono stati i promotori, tra i tanti promotori della mobilitazione della manifestazione del 30 ottobre. una giornata, ricordiamo quella del 31 ottobre a Roma contro il C20, che ha rappresentato la sintesi delle tante mobilitazioni e iniziative che si sono svolte in Italia, che diciamo a Roma hanno ospitato i grandi, che in Italia hanno ospitato i grandi della terra, e che a 360 gradi hanno affrontato tutte le tematiche, dall'ambiente alle politiche internazionali, finanziarie, dalla cultura all'economia, alla sanità. Quindi possiamo affermare che la nostra nazione italiota è stata una tappa per porre i nuovi paletti, progetti, programmi sul nuovo ordine mondiale, dove l'Italia, ecco, con l'uomo della provvidenza italiota Draghi, e ricordiamo un uomo fedele, affidato della finanza internazionale, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea, e possiamo dire un portatore, un untore e traghettatore delle politiche neoliberiste da consolidare a livello planetario in funzione anticinesi e russi. Vediamo che questo G20 di Roma è stata caratterizzata dalla questione Covid, con le annesse propagande vacciniste che hanno tenuto banco nelle plenarie conclusive del G20 di Roma. Lungi da noi entrare nelle vicende vax, no vax, green vax, no green vax, però l'impronta è stata data su quella. Infatti, con la narrazione dei vaccini da portare nelle aree povere del pianeta, questa narrazione, diciamo, incentrare questa narrazione è utile per nascondere diciamo, la mortalità per fame e povertà ed assenza di qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei paesi africani e in ampie aree del pianeta, così come non è stato fatto nessun accenno sull'embargo sanitario a Cuba e dei paesi dell'America Latina, così come non è stato fatto nessun cenno all'emergenza sanitaria ed umanitaria nei campi profughi disseminati nel mondo, ricordiamo Gaza. Così come abbiamo avuto la presenza di Bolsonaro e di Erdogan, ricordiamo veri e propri criminali di guerra da processare per crimini contro l'umanità, e a proposito ricordiamo il ben servito e il ben accolto di Bolsonaro a Padova. Vergognosa, quella, non voglio manco citare il nome di questo comune che gli voleva dare l'onore, che avevo voluto dare l'onoranza, la cittadinanza onoraria. Vergognosa, insomma. E ricordiamo, questi dovrebbero essere processati per crimini contro l'umanità, nonché rappresentano insieme ad Israele questi personaggi veri pitbull degli interessi imperialisti nelle aree strategiche dal Medio Oriente in America Latina, per gli appetiti famelici riguardanti le fonti, per l'accaparramento delle fonti energetiche, il petrolio, il gas, così come delle varie lobby legate al legno, minerali preziosi, colture ad allevamenti intensivi, che non a caso anche questi sono con cause insieme alla questione climatica, quindi atmosferica, delle cause dei disastri ambientali, impoverimento del pianeta, e che sono complici dei cambiamenti catastrofici del clima. Così diciamo, si è parlato di ambiente, si è parlato di pace, quando poi assistiamo periodicamente a scenari che potrebbero portare ad ennesimi conflitti mondiali, con corsa a riarmi sempre più potenti, armi di distrazione di massa e quindi anche di un uso nucleare, armi nucleari intelligenti, ecco, sempre tra virgolette. Un G20 che servisse a sdoganare l'uso del nucleare civile, green, sempre in nome dello sviluppo e del profitto capitalistico. È chiaro, l'ennesima saga sempre più preoccupante dei potenti che, ecco, come riportava lo striscione della manifestazione contro il G20 a Napoli, che ballano sul Titanic. dove l'ombrello atlantico con il non Biden e con il suo l'America è tornata, suggella ancora di più la sudditanza europea agli scenari USA, sempre in funzione anticinese russo, e nazione su quale scaricare le responsabilità dal Covid al cambiamento climatico. Questa, diciamo, in sintesi. Ora mettiamo uno spezzone musicale e poi proseguiremo con l'intervista alla compagna della Confederazione dei Cobas. Que no. Se avessi voluto avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volpi di stato. Sono perseguitato, ma io come un dannato non riesco a accettare di avere accettato. Eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato. Cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni chiamate elezioni e non c'è più nessuno. Fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero. Però mi sente schiacciato. Libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero. La puntata di oggi è la riflessione, diciamo, sul corteo del 30 ottobre a Roma contro il C20. Teresa, ricordiamo ai compagni della Confederazione Cobas di Salerno, che ricordiamo essere tra, insieme ad altre realtà del sindacalismo di base, la promotrice della manifestazione, così come anche di tante altre iniziative svoltesi in tutta Italia preparatrice a questa manifestazione. Ricordiamo che anche la canzone Rappresaglia, che è dalla 99 Posse, è in pratica propone anche i temi dello striscione, che degli operai del CKN, che invita ad insorgere. Niente, abbiamo fatto un'introduzione a delle riflessioni, è chiaro che ci poniamo anche la questione, dopo il corteo di Roma, rinsaldare le realtà del sindacalismo di base, dei comitati, anche localmente. Niente, tu Teresa, allora dici una tua riflessione. Come compagna della Confederazione. Certo, buonasera a tutti. E niente, il 30 rappresentava per noi una tappa di varie iniziative. Certo, noi se pensiamo al 30, a questi summit dei potenti, di quelli che decidono sulle nostre teste, sappiamo che funzione hanno. In effetti ogni volta restiamo molto delusi perché quello che noi vorremmo non viene mai preso in considerazione. Queste riunioni del G20 è stata la solita rappresentazione, ma a noi non interessava tanto la loro rappresentazione, perché abbiamo bisogno di ricostruire un movimento che anche a causa del Covid e del lockdown prolungato ha lasciato un po' tutti a casa, e quindi ci eravamo un po' persi di vista. Tutti i movimenti che in questi anni hanno lottato per migliorare le cose. E dunque per noi il 30 non era tanto per andare a manifestare contro di loro, ma era soltanto per mettere in evidenza alcuni temi fondamentali sui quali poi dovremmo lavorare, perché per non ripetermi direi che il G20 non è servito a quello che noi volevamo, i risultati non sono per noi soddisfacenti. Noi dovevamo mettere in piedi un movimento di opposizione rispetto a che cosa? Noi abbiamo detto subito, arriverà una massa di soldi straordinaria in Italia e in Europa, ci scorreranno tantissimi soldi come ormai non si vedevano da forse da più di 20 anni, e questi soldi che andranno dovrebbero essere, certo Draghi parla di economia espansiva, però dove andranno questi soldi? Cioè, da quello che noi vediamo è che si tende comunque a dare un po' di prebende a tutti, una specie di bonus a questo, a quell'altro, ma non c'è la voglia di andare a fare riforme strutturali, che sono quelle che a noi servono. Servono delle riforme strutturali, perché ancora una volta abbiamo denunciato. Ci sono i beni comuni, quelli che facevano parte di uno Stato sociale smantellato, e che sono salute, istruzione, trasporti, lavoro, diritti, che non sono stati presi in considerazione. E dobbiamo pure aggiungere il problema ambientale, la crisi climatica e tutto quello che ne consegue. Quindi anche il problema ambientale va affrontato cambiando completamente il modello di sviluppo che abbiamo. Non possiamo mettere una toppa qua, una toppa di là. sarebbero soldi sprecati o un'occasione persa per sempre. Perché una volta finiti quei soldi non ne arriveranno più. E allora in questa fase è necessario che noi abbiamo fatto sentire la nostra voce il 30, precedentemente l'11 i sindacati, i COBAS insieme agli altri sindacati non governativi, diciamo, insieme ad altri sindacati conflittuali, abbiamo convocato uno sciopero generale con le manifestazioni regionali, è stato quello dell'11 ottobre, ma non è finita. Dobbiamo andare avanti. Il 30 è stato un momento di ricomposizione. Certo, noi non è che ci aspettavamo una massa, le grandi masse a Roma, però quel momento è stato molto importante, perché prima di tutto ci siamo rivisti, diciamo, ci siamo tornati a vedere da vicino. Pensate che sono 2 anni che facciamo le riunioni online, ci siamo rivisti e ci siamo guardati in faccia di nuovo, e poi abbiamo rimesso in piedi tutte le nostre vertenze. Non è che ci siamo svegliati adesso. Quello che noi abbiamo chiesto il 30 come pure l'11 sono cose che chiediamo da sempre e che oggi più di ieri dobbiamo pretendere, visto che non possono più trovare le scuse che non ci sono soldi da spendere. Detto questo, il mio appello è proprio a continuare, tant'è che il 31, il giorno dopo, è stata fatta una prima assemblea a Roma, una prima assemblea nazionale per rimettere in piedi e cercare di ripartire. Poi sono state fatte altre riunioni con i sindacati che hanno promosso lo sciopero dell'11 e sono venute fuori alcune ipotesi. Tra tante ipotesi c'è un'ipotesi ancora, però che non posso confermare perché ne stiamo ancora discutendo insieme agli altri, anzi forse in questi giorni se ci arrivano segnali dal territorio potremmo decidere, avendo la certezza che queste azioni potrebbero essere condivise. Tipo, possiamo noi, è una domanda che adesso approfitto dell'occasione, possiamo noi pensare a uno sciopero generale contro la finanziaria a dicembre? E questa è una domanda che ci stiamo ponendo. Oppure vogliamo fare un'altra manifestazione nazionale? Vogliamo fare uno sciopero a dicembre con manifestazione nazionale o vogliamo proclamare uno sciopero sempre contro la finanziaria con manifestazioni locali senza andare di nuovo a Roma? Qualcuno in quell'assemblea ha proposto di nuovo una manifestazione nazionale senza sciopero, qualcun altro ha proposto lo sciopero, quindi noi siamo ancora a discutere di questo, quindi sarebbe anche importante raccogliere i segnali dai territori che verranno. Per quanto ci riguarda, noi viviamo in un territorio ormai alla deriva totale. Abbiamo Salerno, ma anche la provincia, se Salerno piange, voglio dire, la provincia non ride. Le città di questa provincia sono veramente un disastro, non si vede un movimento di opposizione su niente, tranne alcuni piccoli esempi, tipo esiste ancora, per esempio a Nocera esiste ancora un comitato per l'acqua pubblica che si impegna, in questi giorni si impegnerà perché ci sono delle decisioni che stanno prendendo. E ci sono pochissimi, ci sono dei movimenti anche a noi, per esempio nell'Agro Nocerino, che hanno fatto una manifestazione la settimana scorsa, sempre in difesa del fiume Sarno, e abbiamo anche scoperto che i soldi che sono arrivati dall'Europa, la regione non li ha utilizzati per risanare il Sarno. Dunque, però noi per fare questo occorre che ognuno di noi deve fare la sua parte, perché non è che possiamo stare dietro a tutto. Poche persone possono reggere l'urto delle cose imponenti da fare, ma dobbiamo avere sempre di fronte a noi il problema di Salerno e della provincia. Salerno è una città moribonda, lo sappiamo bene, chi ci vive e chi ci viene, chi la frequenta questa città, sa bene che i giovani non ce ne sono, abbiamo perso non so quante classi, quante prime classi quest'anno perché mancano, c'è un calo demografico e c'è un calo demografico importante, perché i giovani se ne sono andati e quelli che sono restati non si possono permettere di fare figli. Questa è una realtà. Vanno pure scusami, i giovani. Scusami Teresa, volevo ripigliare appunto quella proposta, quell'appello che tu hai lanciato. Io sì. Cioè, sarebbe opportuno, appunto, è quello che è, diciamo, è uscito pure come necessità e esigenza, quello di consolidare localmente i fronti di opposizione, i movimenti di opposizione, forme di ricomposizione. E diciamo, ecco, questo è anche l'appello, come devo dire, per dire, gli operai della CKN hanno lanciato la proposta di uno sciopero generale. Sarebbe utile. Però vi voglio, meglio che chiariamo un po' la situazione. Sì. GKN vuole lo sciopero generale dalla CGIL, non vuole lo sciopero, cioè certo ha partecipato al nostro sciopero dell'11, però in effetti il loro obiettivo è quello di chiedere e di insistere che la CGIL proclami lo sciopero generale, cosa che non avverrà secondo me. Ma già l'hanno detto che non avverrà, non è che sì. Cioè, tranne mi pare qualche componente della FIOM. Con loro a Firenze, sì, i sì, di Firenze li conoscono, quindi abbiamo dei rapporti con loro e sappiamo, anche se qualcuno di loro si è stufato di questa ambiguità della CGIL, comunque loro sono venuti, sono stati protagonisti e comunque hanno lanciato un messaggio di insorgere, perché il mondo del lavoro, come quello, come tutto il resto che sta crollando a picco, ha bisogno però di movimenti dal basso. Movimenti di cittadini, di cittadine, di lavoratori, di studenti, di genitori, altrimenti non andiamo avanti. Infatti Teresa, scusami se ti interrompo, proprio ecco, quando noi parliamo di riflessioni dal corteo, queste che hai detto tu sono una parte, infatti loro, gli operai della CKN hanno tenuto a precisare che è una questione del comitato dell'occupazione della fabbrica, che è una cosa importante. E la cosa che però esce fuori appunto è che quella rabbia e quella forza operaia non è soltanto legata alla fabbrica, ma a tutto il contesto che gira intorno a loro, centri sociali, comitati, e questa è la cosa. E come dico, come messaggio però è da ribaltare e riportare, diciamo, a livello locale. Tu hai detto una cosa importante: Salerno è una città più che moribonda, morta, e anche le ultime vicende giudiziarie con 200 operai precari, trattati da schiavi con salari di schiavi, stanno in mezzo alla strada e debbono uscire dalle logiche di stare a sentire i sindacati della funzione pubblica del comune, che sono i principali, che sono i principali responsabili, perché noi delle politiche neoliberiste delle varie giunte trentennali di De Luca l'abbiamo sempre denunciate, ma non ha, però debbono uscire fuori i complici di chi l'accompagna, sia delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica che anche dei politici che devono fare l'opposizione, ma che ne sono altamente fregati. Ma questo è un contesto che sì, ecco, però, ecco, sta nell'intero meridione. In tutto questo è la logica clientelare che ci ha sempre rovinato. Noi abbiamo sempre denunciato quello che è successo a Salerno, le elezioni bulgare a cui abbiamo assistito. Noi più che bulgare, da America Latina, diciamo, infatti dei narcos, abbiamo sempre saputo da dove venivano i voti. L'abbiamo sempre saputo. E infatti adesso ci stanno dando ragione i fatti che noi speriamo che vada avanti tutta questa inchiesta, però a noi interessa adesso rimettere in piedi quello che resta a Salerno, cercare di estendere agli altri, convincere i cittadini e le cittadine che le nostre azioni sono disinteressate. Non è che noi andiamo a facciamo tutto questo per avere qualche tornaconto, qualche posto al sole. Abbiamo rifiutato, per quanto riguarda i COBAS, abbiamo sempre rifiutato ogni proposta che ci veniva data per farci abbassare un poco i toni delle nostre proteste. Le nostre proteste continueranno, noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare i toni, siamo disponibili al dialogo. Allora, questa è la cosa importante, ecco, diamo, diamoci l'impegno che magari nella settimana prossima magari indichiamo una riunione proprio a partire dalla questione principale che è il lavoro, la sanità, cioè qua ormai la gente, i tetti di spesa sono raggiunti, cioè siamo in una situazione totalmente catastrofica, però molto spesso... E poi, allora, nessuno si può più curare, le scuole crollano, questa città va avanti solo l'edilizia privata, che poi tra l'altro dobbiamo far comprendere alla città e anche a tutti quanti quei compagni che ancora vivono nelle nuvole o che si aspettano la risoluzione che scenda la Befana, che questo è quello e sarà la società a livello nazionale che ci propone Draghi. Questo è il problema, è privatizzazione selvaggia, precarietà totale e via dicendo. Quindi sì, ecco, ritorniamo a quello che ho detto prima, sì, non è sì. Che con questi soldi si vuole veramente cambiare tutto il sistema che ha prodotto questi danni, il sistema lo vogliono mantenere in piedi. Adesso, siccome hanno parecchi soldini da spendere, non li utilizzeranno per le cose che noi abbiamo chiesto, ma per dare un po' di soldini a tutti, di fare la distribuzione dei pani e dei pesci. È che nessuno vuole rimanere fuori quando dalla spartizione della torta. Anche in questo stanno pure le vicende giuridiche salernitane, che cavano tutte partecipa alla distribuzione diciamo della torta. Allora rimaniamo con un impegno, ecco, da Salerno, che nei prossimi giorni lanceremo una riunione allargata con tutti quanti, inclusiva, la possiamo fare pure ad asilo politico, dappertutto dove vogliamo, però che diamo continuità a ciò che è uscito da quel corteo, se no si rischia sempre delle scadenze nazionali eccetera eccetera, e diciamo. E bisogna anche essere pure, ecco, è stata una bella giornata, come hai detto tu, ci siamo, ecco, quella giornata è dire esistiamo ancora nonostante tutte queste questioni, i casini, di queste giornate che siamo, ecco, in cui c'è stata molta confusione per la strada, dovuta a tante situazioni. Allora, ecco, partiamo dal locale, questo è l'invito, cioè, giusto, quindi lasciamoci con questo. Con questo appello, con questa volontà. E Teresa, l'ultima cosa volevo sollecitare a tutti i compagni a cui sta a cuore questo percorso, che poi rientra nel percorso già attivato, noi siamo dentro il percorso proposto dalla Società della Cura. Vorrei che fare un appello a mantenere gli, cioè a prendersi delle responsabilità e a mantenere gli impegni, perché se noi ci incontriamo, facciamo un accordo, stabiliamo le regole che devono essere condivise da tutti, poi bisogna però farle le cose. Chiaro, c'è bisogno, Teresa, che noi ritorniamo. Sì, no, basta con queste riunioni. Sì. Noi dobbiamo ritornare in piazza più presto possibile, anche come prima tappa fare un'iniziativa forte sotto al Comune di Salerno, perché ricordiamo i recovery fund saranno destinati alla regione, ai comuni, i comuni diventano diciamo, e quindi noi dobbiamo controllare, forse siamo un po' in ritardo perché come al solito noi rincorriamo sempre certe volte le decisioni governative. È arrivato il momento che cominciamo a stare a riprendere ciò che diciamo abbiamo fatto durante quei pochi spazi durante il lockdown, riprendere la questione della scuola, della sanità. Qua oggi all'università mi sembra che diciamo è crollato un soffitto in un aula dell'università, figuriamo. È chiaro. Quindi l'acqua crolla tutto. E noi dobbiamo riproporre la ripubblicizzazione dei servizi pubblici, perché quando i servizi pubblici vengono privatizzati, qua comincia l'attacco alle logiche della democrazia reale, dei cittadini e dei bisogni quotidiani della gente. Teresa, senti, il mio appello è questo, perché se vogliamo veramente andare avanti, perché da soli cioè i Cobas l'hanno sempre detto, questo modo che, di dire che c'è oggi, nessuno si salva da solo, è stato sempre il nostro obiettivo, costruire dei movimenti. Però vorrei che quello che si decide insieme poi venga portato avanti. Vabbè, che sì, che è sempre il problema solito. Vabbè, ma non solo nostro, ma non solo nostro, non solo nostro locale, ma così come il fatto che se unità del sindacalismo di base, una cosa è dirlo teoricamente, è un'altra cosa, e poi quando tu nella situazione pratica a livello territoriale, magari questa unità non ci sta. Questo è anche un dato politico, per essere anche onesti con noi stessi e con gli altri. O sbaglio, Teresa? Sì, però io adesso non voglio entrare in infatti. Perché sarebbe troppo. No, anzi. Allora, noi ci abbiamo provato già più di 10 anni fa a fare un patto di base. Va con bene. Gli altri sindacati. È arrivato il momento. Non per noi. Va bene. E non voglio entrare. No, sarebbe un ragionamento molto ampio, perché. Allora, l'importante è che noi dobbiamo ricominciare a pigliarci le piazze, non domani ma subito. Allora Teresa, grazie del tuo contributo alla riflessione, ci sentiamo alle prossime iniziative. Ciao Teresa, un abbraccio, un bacione, ciao. Mo mettiamo un poco di musica, poi ripigliamo la discussione, e ricordiamo che ci collegheremo anche un altro compagno dell'USB che dirà pure la sua come riflessione. tutto lei. Allora, continuiamo la discussione, ora siamo in collegamento con Lorenzo, un altro compagno che, come abbiamo sempre ricordato, appunto, che la Confederazione Cobas, l'USB insieme a tante altre realtà del sindacalismo di base, comitati dell'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera, sono stati tra i promotori. Della manifestazione del 30, così come dello sciopero generale dell'11. Stavamo parlando, ciao Lorenzo, allora ci sai? Buonasera. Ciao. Buonasera. Stavamo parlando di quel che è scaturito dallo sciopero del 30, quello di dare continuità a partire dal livello locale, e quello magari poi ci sono varie proposte, quello di fare uno sciopero generale, però invece di farlo una scadenza nazionale sarebbe opportuno riproporre localmente, ricomporre localmente questo fronte di opposizione contro Draghi, contro tutto ciò che, diciamo, Draghi sta portando avanti. E niente, ecco, stiamo parlando delle riflessioni. Tu, Lorenzo, cosa ne dici del corteo del 30 e anche sulla necessità di riprendere localmente, più breve tempo possibile, forme di ricomposizione e momenti di mobilitazione? A te la parola. Sì, un sacco di spunti di riflessione. Diciamo che io ho partecipato ad entrambi i cortei, sono stato a Napoli il 30 e sono stato a Roma la settimana scorsa. Sono stati due momenti molto importanti, soprattutto perché ovviamente il momento del 30, che a Napoli ho visto poi anche nella mattina attorno alle 6:30 anche un blocco stradale, i cui compagni hanno impedito per un'oretta circa l'ingresso al porto di Napoli. È stato appunto anche simbolicamente questo, come è stato un momento importante, perché appunto si è arrivati a una data che ha visto finalmente un ricompattamento del sindacalismo di base, che è una tappa fondamentale di cui si parlava da mesi, anche perché purtroppo la situazione è quella che è, quindi è quanto mai necessario ricombattere i fronti. Questo lo diciamo anche a Salerno da più di un anno, stiamo seguendo questa strada qua, anche le stesse manifestazioni i presidi del comitato dei disoccupati sotto al comune che ci sono stati a partire dall'estate del 2020, e i momenti prima del percorso di tentativo di ricomposizione di un movimento dei disoccupati andavano esattamente in questa direzione. Quindi diciamo che anche qui per Salerno è stato anche in questo caso un laboratorio. E poi questo del 30, è stato il punto culminante, perché comunque anche la partecipazione c'è stata, è stato un buon corteo. Quello della settimana scorsa a Roma ovviamente è stato con i numeri ci sono stati. Io ho visto diversi spezzoni, ma comunque marciare unitari, anche perché così come dicevo prima, la situazione non è per niente rosea, c'è bisogno di fare fronte comune, perché altrimenti si finisce facilmente spazzati via. Anzi, un'altra cosa che il corteo a Roma mi ha fatto riflettere era l'elevatissimo livello di militarizzazione che c'era, cioè è stato comunque un corteo che se una persona voleva partecipare così spontaneamente non era sicuramente stimolato, perché strade chiuse, linee della metro chiuse, anche sono salito a Roma in macchina, c'erano un solo casello, c'era un'ora e mezza di fila per entrare a Roma. Sono comunque segnali che di sicuro il tentativo è quello di spegnere sul nascere ogni tipo di opposizione e ancora di più ogni fronte di opposizione, perché ovviamente un fronte di opposizione ha una forza molto molto maggiore di quella che può avere il singolo momento di opposizione. A Salerno, per ritornare sul livello locale, anche soprattutto alla luce degli eventi che sono successi nelle ultime settimane, nelle ultime ore anche De Luca indagato, questo me l'ero perso, è di qualche ora fa, Lorenzo. Stavi in giro, non hanno sicurezza, va bene. Ne prendiamo atto, al di là di quelle che siano indagini della magistratura, perché noi comunque dobbiamo fare un ragionamento politico che vada oltre quelle che sono le colpe giuridiche che poi spetta alla magistratura in questo caso. Noi comunque c'è un discorso politico a monte, che al di là di chi verrà condannato, in che misura, se ci saranno condanne, qua il dato politico è che c'è sta e questa è una cosa che andiamo dicendo già da tempo, che c'è un sistema di potere radicato nella città che non permette, che diciamo genera l'immobilismo generale e non permette anche, cioè rende molto molto difficile la formazione di un fronte di classe, diciamo così, perché il ricatto a cui sono sottoposti la maggior parte dei lavoratori a Salerno è una cosa che veramente e noi appunto quando anche facevamo le liste dei disoccupati ci siamo scontrati materialmente con la difficoltà nell'entrare nei quartieri, perché appunto c'è una cultura radicata camorristica, politico-camorristica di gestione del potere. Quegli audio che sono usciti qualche giorno dopo le elezioni, io so dove voti, so come voti, è la cosa di saputo. Mo addirittura sono arrivati a un livello di sfacciataggine da mandare un messaggio vocale su WhatsApp, che è una cosa che poi appunto gira ed è facile che poi fuoriesca, ma questo è un sistema che prima, se Cristo fosse andato là a dirlo a parole, sarebbe stato molto più difficile far uscire ad esempio una cosa del genere. Quindi è un sistema che sono decenni che ingabbia la città di Salerno. E poi che cosa comporta? Comporta che ovviamente chi ha la possibilità anche minima appena può se ne va via, e che basta vedere i dati dello spopolamento di Salerno. Anche tanti compagni che vanno via, vabbè. Cioè, i giovani sono anche giovani compagni. Che purtroppo appunto la situazione è questa, e questa è appunto una cosa che noi abbiamo sempre detto, e molto spesso ci siamo purtroppo scontrati anche contro non vorrei manco dire, cioè, alla fine anche molti compagni sembrava che l'accettassero seraficamente questa cosa, compagno comunque che si dicono antideluchiani. Però a quanto pare con le luci della ribalta che sono arrivate hanno tirato fuori di nuovo un po' di gente che quando facevamo i presidi sotto al comune ci dicevano che facevamo strumentalmente a qualcosa. Ci fa piacere che si siano però resi conto adesso che il discorso aveva un senso, e saremmo ben lieti di farci una chiacchiera, di rivederli, di rivederli in piazza soprattutto. Quindi più o meno queste sono le considerazioni che io ho tratto da queste settimane di mobilitazioni e di indagini, diciamo così, a livello locale. No, ma infatti Lorenzo, l'abbiamo detto pure prima durante la trasmissione, dobbiamo evitare di cadere in tifoserie, perché mo a Salerno si è aperto il toto arresto, che è un'espressione proprio del plebeismo salernitano. Il problema, appunto, come dicevi tu, il problema è politico. Questo è il neoliberismo che da 30 anni, questo è il neoliberismo applicato al territorio, e noi sono 30 anni che lo stiamo denunciando. Il problema non è, perché poi problema mai fidarsi della magistratura, perché abbiamo visto la magistratura in pratica ha consolidato i licenziamenti degli operai della Whirlpool, mette in galleria i compagni, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, ritornando a noi, ecco, per dire, la questione importante è il problema della gestione dei recovery fund, che scenderanno dei soldi, li gestirà il comune, ed ecco perché è importante, ecco, cominciare a ripigliarci le piazze in un modo, ecco, la speranza nostra è in un modo unitario di ricomposizione, perché dietro tutte queste vicende ci stanno questi miliardi in cui nessuno vuole rimanere fuori dalla spartizione della torta. Questo è il dato, e vedere che la destra si pone come difensore della democrazia, eccetera, eccetera, questa è una cosa da fare, diciamo, da farci incazzare. E niente, con Teresa, ecco, siamo rimasti, come devo dire, come confederazione, ma è chiaro, tu come, magari come USB, anche a dire in questi giorni di fare una riunione per determinare magari momenti di mobilitazione, cioè riprendere ciò che noi in qualche mese fa stavamo facendo sotto al comune. Mai come d'ora è importante riprenderci la piazza, le piazze. E diciamo, così come, per dire, ci sta anche la proposta, stanno parlando di uno sciopero generale da fare entro dicembre. Noi pensiamo che se sciopero generale sarebbe più opportuno farlo localmente, perché qua localmente si deve determinare la ricomposizione, l'unità, per poi magari fare dei percorsi che potrebbero pure portare a una scadenza nazionale, ma il problema è ripartire dal locale. Tu cosa ne pensi, Lorenzo? No, sicuramente, giusto un appunto, forse è stato un attimo fraintesi. No, era così una mia... Quello che è il suo ruolo è, con tutti i problemi che ci sono, è giusto una precisazione, che non può essere... assolutamente, no Lorenzo, non era in quel senso. Era più rivolto a quel clima che tu accennavi, che mo ci sta chi vorrebbe riandare alle elezioni, che ora sono usciti dal sonno come se loro, molti, non sapessero di quel che succedeva in questa città. Era più legato a quello, non a te, non a quello che hai detto tu. Sì, no, poi anche questa cosa è un po' così. Abbiamo anche questa è anche una cosa che noi avevamo detto tangenzialmente. Se no qua va a finire, a De Luca l'abbiamo votato noi, lo sosteniamo noi, alla fine andrà a finire così. Perché poi c'è stata anche questa, tra l'altro, questa cosa curiosa, che uno dei principali candidati alle ultime elezioni fa il difensore di Zoccola, è pure una tutata su cui è buono farsi una riflessione così generale su che cosa sia il sistema di potere a Salerno. Vabbè, e gli appetiti famelici su questi recovery fund, che sono... perché la questione del recovery fund che è sempre quanto mai attuale, perché appunto ci sarà una lotta per questi pioggia di debiti appunto, soldi che ci arrivano non è che poi piovono dal cielo, li dovremmo ridare prima o poi, quindi sì, sono molto d'accordo sul fatto che si debba riprendere la piazza, anche perché appunto la piazza è il luogo nel quale noi dobbiamo stare, nel quale va portato il malcontento e l'opposizione, perché appunto non ci si può limitare a fare a trincerarsi dietro le sentenze o dietro il post su Facebook. È normale che il momento di piazza, io penso che qui non abbiamo dubbi, perché appunto l'abbiamo fatto per già da un bel po' di tempo, quindi non su questo io invito. Abbiamo sempre fatto anche inviti a tutti i compagni a venire, quindi oggi ancora di più è necessaria una presenza in piazza, anche perché i lavoratori, ho visto, hanno fatto i presi, perché cioè, appunto quella è la logica. Il lavoratore, quando c'è qualcosa che deve portare in piazza i suoi bisogni, la sua necessità di opposizione, lo fa in piazza, lo fa sotto il comune, esattamente dove stavamo noi 6 mesi fa. Va bene, Lorenzo, noi con Teresa diciamo siamo rimasti che magari, ecco, come devo dire, tu per la tua componente, insomma, Teresa per ciò che compete la Confederazione, tu per la tua componente magari di indire in questi giorni una riunione proprio per preparare delle iniziative, diciamo, da fare con una certa celerità e fretta. Tu cosa ne pensi, Lorenzo? Va bene, aggiorniamoci, sentiamo, ci organizziamo. Va bene. Ora, Lorenzo, ti ringrazio del tuo contributo e il contributo che dai ai compagni. E niente, ora mettiamo un altro po' di musica e niente. Ciao Lorenzo, un abbraccio, ciao, buona ciao. Serata, ciao. Ciao, ciao. Chi è? Scusate signore, siamo in 99 posti. Sant'Antonio un nemico del demonio. Sant'Antonio un nemico del demonio. Sant'Antonio un nemico del demonio. Sant'Antonio un nemico del demonio. O demonio sei fascista, demonio polizia. Sant'Antonio viene qua e portatilo tutti via. O demonio sei fascista, demonio polizia. Sant'Antonio viene qua e portatilo tutti via. Allora cari compagni e compagne, concludiamo questo dibattito, è stato l'inizio, sperando che diciamo si superino tante divergenze, diversità, divisione, che si arrivi veramente a determinare un movimento opposizione di ricomposizione. È chiaro, vabbè, è inutile che proseguiamo. Alla prossima compagni e compagne. Che ladruna sa tappiccia una bamba che fa tra me.